già dentro sarai contento di quello che scoprirai, dei tesori che hai dentro che ancora non sai. Viaggia dentro e sarai contento di quello che rivedrai, tutto il film della tua vita tu ancora non sai. Nasce dentro un incantesimo come qualcosa di magico. E io, quando tutto trema, anch'io cerco il mio sistema e vivo. Già dentro sarai contento di quello che scoprirai, dei tesori che hai dentro e che ancora non sai. Nasce dentro un incantesimo come qualcosa di magico. Io, quando tutto trema, anch'io cerco il mio sistema e vivo. Allora, la prossima canzone si balla così, eh?